Chi studiò i fenomeni della percezione nella prima metà del Novecento poté avvalersi della tecnica cinematografica. Come racconta David Katz nella Psicologia della forma, un vecchio libro, del 48 se non vado errato, è stato possibile dunque studiare i casi di osservazione simultanea di due processi di movimento tramite per esempio la cosiddetta dissolvenza incrociata. La dissolvenza incrociata era quell'artificio che consiste nella sostituzione graduale di una scena con un'altra in modo tale che la prima sbiadisce poco a poco, no? Mentre la seconda si fa progressivamente più netta finché finisce per prendere definitivamente il posto della scena precedente. Oggi nella manipolazione delle immagini siamo molto ma molto più smaliziati. In un film o in un qualsiasi spot pubblicitario la figura è lì, è davanti a noi, apparentemente indubitabile, certa, no? E ben situata in un suo contesto, ma dura un attimo perché all'improvviso deborda da sé, si sdoppia, travalica i propri confini e si replica altrove, magari nell'angolo più lontano dello spazio in cui si trovava. Come se si esercitasse in spostamenti magicamente abbreviati, no? Deve andare da lì a là, ma parte rimanendo ancora per un attimo qui, aleggia ubiquitariamente e poi è là, senza linearità, senza tragitto, come se il suo movimento la scontornasse e come se le leggi della vecchia cara fisica cinematica siano irrimediabilmente venute meno. Qualcosa di analogo riscontriamo nelle scritte. È ormai raro trovarne una in un manifesto, sulla copertina di una rivista, nei titoli delle trasmissioni televisive, poi che sia composta interamente dei medesimi caratteri. Nella varietà si abbonda, si spezza la parola in tronconi di proporzioni diverse, si sovrappone le parole, le si schiaccia una sull'altra, lettera per lettera le si colora come fossero una tela da pittore. I caratteri ormai moltiplicati a dismisura tendono poi tutti alla malfermità. Ci sono quelli che si sdoppiano, quelli che sembrano luci al neon, luci soffuse, quelli che stanno svanendo, quelli che sembrano l'ultimo mozzicone rimasto acceso, quelli che stanno scivolando via, quelli che sgocciolano, quelli che scappano via tirati da qualche forza misteriosa. Perfino i loghi che sulla notorietà basano la loro stessa sopravvivenza, perfino i loghi sono ormai assestati al minimo della loro riconoscibilità. Qualcuno sembra strappato o eroso, qualche altro è bollito, qualche altro è vitreo, traslucido o madido di sudore, come avesse la febbre. Non avendo ancora inventato un termine per descrivere questo sfacelo percettivo che ormai accompagna la giornata di tutti noi, io me la cavo dicendo che tutta questa roba è postmoderna. Sono i risultati di tecnologia minima da una parte, come quella dei retini o dei caratteri trasferibili, e di tecnologia massima dall'altra parte, come quella dell'elaborazione di immagine e parola tramite computer e accessori vari. Dalla letteratura scientifica seleziono uno dei tanti esperimenti possibili, un esperimento in due fasi. Allora, mettiamoci prima a circa 30 centimetri da un cartello su cui è disegnato un disco il cui livello di grigio rimane costante fino a un centimetro circa dalla circonferenza, dove invece diciamo che il grigio scende gradualmente per poi confondersi fino al bianco del cartello medesimo. Bene. Se insistiamo a fissare il centro di questo disco, constateremo che entro più o meno un paio di minuti, o anche molto prima a volte, il grigio scomparirà dal nostro vissuto percettivo. Vediamo tutto bianco, confuso. Passiamo ora alla seconda fase dell'esperimento e ci mettiamo di fronte ad un secondo cartello dove è disegnato un disco della stessa dimensione, esattamente grigio come l'altro. Ci mettiamo a circa 30 centimetri e lo fissiamo. Passano i secondi e passano anche i minuti questa volta e il disco grigio rimane lì, non scompare affatto. Cos'è successo? Semplicissimo. Questo secondo disco non sfuma gradualmente nel bianco, ma è contornato, ha un bordo ben preciso. L'evoluzione su questo pianeta ha fatto sì che la percezione di certi animali, fra i quali colui che vi parla, si avvalesse di un'operazione fondamentale per ottenere i propri risultati, la distinzione di qualcosa da qualcos'altro che allora diventa sfondo. E fra gli elementi che favoriscono la percezione visiva, un ruolo fondamentale lo svolge il contorno. Tant'è vero che se in natura cerchiamo qualcosa dai bordi sfumati, facciamo fatica a trovarlo. Mi vengono in mente certi frutti del cotone, dove un pelame biancastro copre i preziosi semi. Mi viene anche in mente la capacità di certi animali di mimetizzarsi con il terreno su cui si trovano, affinché l'occhio del predatore, per l'appunto, abbia difficoltà a distinguerli dallo sfondo. In questo andazzo postmoderno del rendere indecifrabile la parola e ambigua l'immagine, tuttavia non vorrei che si sottolineasse soltanto il consueto contrasto tra natura e cultura. Abbiamo elaborato nel corso di milioni di anni degli strumenti che, per il gusto di cedere all'enfasi, di inchinarci al nuovo, o meglio, per assecondare le leggi del mercato della comunicazione, per farci del male con la nostra capacità di produrre cultura, abbiamo elaborato degli strumenti che contraddiciamo, che mettiamo in difficoltà, che mettiamo in condizione di non funzionare come dovrebbero, che buttiamo via, che facciamo ammalare. È così, ma non è soltanto così. In questo corrompimento sistematico delle condizioni percettive sta una svalutazione politica di ciò che si comunica con immagini e parole. Come si svaluta il quadro ideologico, così si svaluta il sistema di segni cui il quadro ideologico è affidato per la sua riproduzione sociale. Se si crea ad arte difficoltà di lettura, è anche perché non c'è niente da leggere. Se chi comunica avesse davvero qualcosa di importante da comunicare, non inserirebbe fra le sue soluzioni espressive né caratteri sfocati, né palline che girano, né parole che pulsano, né frasi che transitano velocemente per tutti i versi come in internet o sugli schermi televisivi. Avrebbe invece cura di affidare il proprio pensiero a qualcosa di stabile e di ben percepibile per favorire un rapido passaggio dai designanti e designati, ovvero dalle forme della sua comunicazione al pensiero. Lo stato di salute del pensiero è già misurabile dal linguaggio. È noto da tempo come certe farfalle, le larve di vari bruchi, ricorrano ad un curioso stratagemma morfologico per difendersi dai predatori. L'evoluzione ha dipinto sulle loro ali o sul loro dorso una coppia di ocelli che, grazie anche ai colori molto contrastati, appaiono, questi ocelli, come occhi veri e propri, minacciosissimi. Cat Level, per esempio, ha osservato che se un uccello lascia cadere per terra la sua preda prima di mangiarla e se questa nel dispiegare le ali esibisce un bel paio di ocelli, il predatore, senza pensarci su due volte, scappa via. Una rassegna ben ragionata di queste soluzioni intimidatorie a livello morfologico è quella che ha fatto Roger Caillois nell'Occhio della Medusa, un libro che è uscito un paio d'anni fa qui da noi, ma era uscito già nel 60 in Francia. D'altronde, D'altronde di occhi apotropaici, nel senso di che hanno una funzione allontanativa, diciamo così, è zeppa anche la nostra cultura. L'antica usanza di dipingere un paio di occhi sulla prua delle imbarcazioni o di piazzare qui o là maschere contro quello che non a caso veniva appunto definito il mal occhio, tutte queste usanze lo testimoniano in abbondanza. Inutile dire che la probabilità del loro successo è direttamente proporzionale alla loro visibilità. La fortuna degli esseri umani, nella giungla metaforica del sociale o nella giungla non metaforica, dipende dalla possibilità di controllare gli spostamenti dell'attenzione dei propri simili. La struttura dell'occhio dunque ci favorisce. Il bianco della cornea fa sì che sia relativamente facile registrare l'angolo dello sguardo altrui. In ogni volto che incontriamo, gli occhi costituiscono un punto di riscontro sicuro delle intenzioni altrui e nel franco rapporto a quattro occhi di solito ci si comprende. L'altro giorno sono a tavola, sono a Firenze e senza ombra di colpa mi accingo ad aggredire una bistecca alla fiorentina. Quando qualcuno mi dice che forse mi sta succedendo qualcosa. Io gli rispondo sì, che a dire il vero mi sento benissimo e che fra poco mi sentirò ancora meglio, ma quello insiste, dice guardi, no scusi, è meglio che vada a vedersi in uno specchio. Vabbè, lascio la bistecca, vado allo specchio più vicino e quel che mi sta succedendo, è il caso di dirlo, salta all'occhio. Proprio nella palpebra inferiore dell'occhio destro, sotto il canale lacrimale, sta allargandosi una macchia rossa che non promette niente di buono. È un capillare che ha ceduto, vabbè. Torno alla bistecca mesto, vabbè, come mi dirigessi ad un penitenziale. Da quel momento vivo con due occhi e una macchia. Una macchia che non può sfuggire a nessuno che interloquisca direttamente con me, mentre a me nell'interloquire con lui non può sfuggire che al mio interlocutore la macchia non sfugge. Mi guarda e il suo sguardo non si ferma più nei miei occhi, vaga dalla macchia agli occhi, dagli occhi alla macchia. Ogni colloquio mi riesce imbarazzante, perché come oggetto di percezione, anch'io sono diventato postmoderno.